Salva Danaio. Buongiorno, ben ritrovati da Irene Zerbini, Deborah Rosciani, la titolare di questa trasmissione in ferie. Dunque per un po' staremo insieme. Oggi affronteremo un tema economico, proprio così, anche se parleremo di divorzi in realtà. Muove più la famiglia che lo spread, se dobbiamo guardare alle ricchezze, ai patrimoni e naturalmente anche a quello che si mette a disposizione dei figli per garantire un futuro migliore. Da questa premessa abbiamo deciso di prendere in esame oggi un particolare forse poco esplorato quando si parla di separazione e divorzi. C'è un particolare totalmente patrimoniale. Spesso questa è la realtà delle aziende in Italia caratterizzate da microimprese di natura familiare e spesso queste microimprese sono condotte da entrambi i coniugi. Però le statistiche ci dicono e c'è sempre più la possibilità che nonostante si parta tra moglie e marito poi si finisca con uno solo dei due. E allora l'impatto di queste separazioni, di questi incrementi è naturalmente incrementi di divorzi, è naturalmente emotivo. I divorzi, le separazioni sono sempre immancabilmente lacrime e sangue e molto spesso in altre trasmissioni ci si è soffermati su quelle che sono le legislazioni, le norme che regolano il mantenimento dell'ex coniuge o di eventuali figli a carico. Ci sono poi delle conseguenze umane e psicologiche anche per quel che riguarda la conduzione, per esempio, di un'azienda che si guidava insieme. L'aspetto economico ha in questi casi una rilevanza fondamentale. E c'è anche un'altra realtà. Quando i due coniugi, infatti, condividono un'esperienza lavorativa, un'azienda familiare, e uno dei due decide in qualche modo, tra virgolette, non è bello ma va detto, di farla pagare all'altro, spesso ci sono delle situazioni che si ripercuotono anche sulla ricchezza prodotta da quell'azienda. Dipendenti che scappano, stato confusionale, situazioni contraddittorie e contrastanti anche in sede di riunioni o di direttive. Vi è successo? Volete raccontarci la vostra storia? Ma soprattutto noi ci chiediamo oggi come si potrebbe rimediare a questa situazione, se non proprio l'approdo nell'isola ideale, quasi utopico. Come si potrebbe arginare quello che comunque causa spesso una sofferenza, la sofferenza sull'identità della persona che prima lavorava in un certo modo e la sofferenza sui figli, sugli eredi, su coloro che sono coinvolti, che orbitano intorno a questa realtà. Volete parlarne? Il numero verde da comporre è l'800240024 per i vostri interventi. Ripeto, 800240024. Se invece preferite inviarci un messaggio, lo potete fare fino al termine della trasmissione al 349-238-6666 per i numeri SMS, 349-238-6666. Noi vogliamo cominciare a parlarne con un avvocato piuttosto normale in situazioni di questo genere. Saluto dunque Gianetto Regassani, buongiorno. Buongiorno a voi. Gianetto Regassani è il presidente fondatore dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani ed è autore anche di un libro dal titolo piuttosto significativo, I perplessi sposi. Perché perplessi? Ma è un titolo scelto dall'editore, io ho scelto 27 minuti che era il minutaggio medio per un'udienza presidenziale, insomma, per parlare della tristezza della separazione, un titolo ironico, ma il testo del libro è assolutamente disperato. Parla di quelle persone che contraggono matrimonio senza crederci più di tanto nel matrimonio stesso, cioè di quelle persone destinate al tribunale. E tantissima Cioè secondo lei si può prevedere ab origine? Cioè dal momento della contrazione del matrimonio si potrebbero identificare quelle coppie che non termineranno insieme la loro esistenza, avvocato? C'è gente che si sposa con tutte le riserve mentali del mondo, addirittura si rivolgono agli avvocati ancora prima di sposarsi per sapere quale sarebbe il destino in caso di separazione o divorzio, cioè lo fanno con tutta la malafede possibile e sono quelle persone che io ritengo irresponsabili perché mettono al mondo i figli, vanno a ingolfare i nostri tribunali e si sposano semplicemente come se fosse un atto qualsiasi, come se fosse una sorta di convenzione sociale. Ecco perché sono perplessi, perché lo sono già all'inizio. Capisco le coppie che magari dopo tanti anni possono entrare in crisi, ma non posso assolutamente accettare che ci sia un 20% di italiani che si sposano sapendo che tanto c'è l'avvocato che li può aspettare al primo segnale di crisi. Avvocato che in questo caso è anche autore di un progetto di legge, è stato depositato alla Commissione Affari e Giustizia in Senato sugli accordi prematrimoniali, ed è proprio questo l'aspetto che vorremmo approfondire con lei. Avremo modo di farlo nel corso della trasmissione. Presento ora gli altri ospiti. Con noi il segretario della CGA di Mestre, Giuseppe Bortolussi, buongiorno. Buongiorno a voi. E lei, da un osservatorio piuttosto particolare, ha avuto modo di osservare questo fenomeno della famiglia che si sfalda e insieme alla famiglia anche l'azienda. Sì, purtroppo sì, sono sempre più numerosi i casi, anche se c'è da dire una cosa. Di questi tempi, con le gravi difficoltà economiche, certe imprese, soprattutto quelle micro di cui mi occupo io, diventano meno appetibili, un po' per le difficoltà di mercato, un po' per la tassazione, un po' per il difficile accesso al credito, un po' per i tempi di pagamento, diventano un po' meno appetibili. Poi l'altro aspetto è che la microimpresa ha sempre un carattere un po' personale, sempre legata all'imprenditorialità, alla professionalità del titolare. Quindi anche quando un coniuge collabora e magari riuscisse per marchingegni legali o cosa ad appropriarsi dell'impresa, a volte ha grandi perplessità, perché per condurla ci vuole quell'intuito personale, quella capacità personale. Quindi è moderato il fenomeno solo da questi aspetti. Per il resto vediamo tanti casi, ahimè, in cui persone che si sono volute bene, che hanno figli insieme, diventano acerrimi nemici e si spartiscono anche le cose più banali, salvo quelli di effetti personali, quelle cose lì, però ci sono delle guerre sante per piccole cose, proprio perché intervengono elementi d'odio, elementi diversi da quello imprenditoriale. E quello infatti è un aspetto piuttosto noto, credo che nessuno sia sobbalzato sulla sedia stupito da quanto stiamo dicendo, perché di divorzi e separazioni si parla piuttosto spesso. Quello che rimane invece così un po' meno conosciuto è l'effetto della comunione dei beni o della separazione dei beni, e soprattutto della mancanza totale in Italia di patti prematrimoniali su quella che può essere la gestione di un'attività insieme. Per esempio, ci ha scritto una signora che è stata sposata per molti anni in regime di comunione dei beni, segnalando che durante il matrimonio aveva aperto un'azienda col marito, o meglio, il marito sulla carta aveva aperto l'azienda, ma lei di fatto ci ha lavorato come segretaria, gestendo la ditta, partecipando attivamente tutti i giorni, non percepiva alcuno stipendio, come spesso succede in questi casi. Non era stata, come si dice in gergo, messa in regola. Cosa succede? Il matrimonio entra in crisi, come le statistiche ci segnalano, sempre più spesso accade, il marito manda via la signora senza dare alcuna somma di denaro, perché sostiene l'azienda è tutta mia, lui dice ho provveduto al tuo mantenimento mentre tu vivevi qui e mi davi anche una mano, e quindi non hai nessun diritto. A parte, questa è una domanda che possiamo porre al legale, se sia vero o meno, se sia vero che la signora non può vantare nessun diritto, ma a prescindere da questo è una situazione piuttosto comune, quella soprattutto della donna, ma non sempre, che non si fa tutelare, che lavora, diciamo così, per amore e poi si trova in questa situazione, estromessa dall'azienda, a volte addirittura sul lastrico. Le è capitato di rappresentare persone di questo genere, avvocato Gassani, o in questa situazione? Molto spesso l'Italia è fatta di piccole aziende, di piccole imprese con familiari che in qualche modo danno il loro apporto, soprattutto il coniuge. Ora, bisogna valutare caso per caso ovviamente ogni vicenda. Ci sono casi in cui l'altro coniuge, quasi sempre la moglie, saltuariamente dà una mano all'impresa o all'azienda. Altri casi ci sono invece di donne che invece hanno un ruolo molto importante, non risultano nei guadi societari, non risultano da nessuna parte, non sono stati messi a posto, quindi non hanno un rapporto di lavoro subordinato, ma hanno dato un grosso contributo alla promozione di quell'attività, hanno pensato hanno potuto fare contratti, creare canali pubblicitari, eppure poi quando finisce l'amore, quando finisce il matrimonio, finisce anche la loro avventura. In questo caso c'è la legge che tutela queste persone, bisogna dimostrare appunto di aver potuto di aver dato un contributo importante, o c'è una vertenza di lavoro se si va a rivendicare un rapporto di lavoro subordinato, addirittura l'impresa familiare se si tratta di un coniuge socio a tutti gli effetti, cioè una persona che ha avuto un ruolo assolutamente imprenditoriale, importante, determinante, e quindi ci sono gli strumenti. Purtroppo però poi si fa i conti con le lungaggini burocratiche del nostro processo. Quindi la signora in questione può sì essere tutelata, però rischia magari di vivere anni di sofferenza e povertà, e conseguentemente anche i figli che ora vivono con lei, prima di vedersi riconoscere questi diritti. Assolutamente sì, purtroppo è così, ed ecco perché secondo me bisogna mettere le cose in chiaro e per iscritto. I patti prematrimoniali di cui parlava lei potrebbero essere una soluzione, patti prematrimoniali o patti matrimoniali che si possono quindi redigere anche dopo la celebrazione del matrimonio. Noi abbiamo depositato questo studio dell'AMI presso la Commissione di Giustizia del Senato, in questo momento è ancora tutto fermo perché poi dopo qualche mese cade il precedente governo. Ci auguriamo che si possa almeno riprendere questo discorso, perché l'Italia è uno dei pochi paesi dell'Occidente in cui i patti prematrimoniali sono assolutamente vietati, o meglio non sono riconosciuti, perché secondo una cultura omologata nel nostro paese il matrimonio non deve essere assolutamente considerato un contratto, invece poi di fatto lo è. E quindi un po' ipocrita come premessa. Come tante cose in Italia. Noi abbiamo fatto un congresso a Milano un paio di mesi fa, ci siamo resi conto, sentendo parlare i giuristi degli altri paesi dell'Unione Europea, che l'Italia è veramente un paese ipocrita, dove tutto è vietato, dove tutto è complicato, dove i processi durano 10 volte di più. E dove si continua a considerare normale una tipologia di famiglia che è statisticamente eccezionale, cioè quella con padre, madre, 2 bambini che rimangono sposati fino al termine dei loro giorni. Lo diciamo con spirito assolutamente laico, naturalmente, sì, però le statistiche vanno prese in considerazione. Torneremo con lei tra pochissimo, avvocato. Voglio ricordarvi, nel caso abbiate domande da porre o semplicemente questioni da sollevare, i messaggi SMS possono essere inviati al numero 349-238-6666 oppure le telefonate al numero verde 800-24-0024. Patti prematrimoniali, dicevamo, perché in alcuni paesi, gli Stati Uniti sono un esempio ma non sono gli unici, la coppia che intende sposarsi stipula un contratto, regola in tutto o in parte le modalità sotto l'aspetto economico di un'eventuale separazione o divorzio. Questo non è possibile, questi patti in Italia trovano ostacolo in una legislazione, una giurisprudenza, in una mentalità piuttosto rigida. Qual è il problema? Che la lungaggine poi dei riconoscimenti di diritti che dovrebbero essere acquisiti porta a sofferenze, porta a dolori inutili, porta anche all'enfatizzarsi di quel clima di astio, qualcuno ha detto odio, magari l'odio, non so, voglio sperare un po' esagerato, però senza dubbio di grande competizione che si viene a creare tra ex coniuge, che poi si riverbera immancabilmente anche sui figli. E c'è da dire, oggi prendiamo in esame l'esempio di queste persone che vengono estromesse dalle aziende, magari dopo averci profuso 20 anni durante il matrimonio di lavoro anche non riconosciuto, c'è da dire che non sono tutte vittime completamente innocenti. A farci questa segnalazione è stato un dottore commercialista, Pasquale Ardizzi, che saluto, buongiorno. In che senso, dottor Ardizzi, queste persone che si ritrovano a ricoprire il ruolo della vittima estromessa dall'azienda dopo una separazione o dopo un divorzio sono un po' copartecipi del loro destino? Buongiorno a tutti. La domanda, secondo me, visto che faccio il consulente aziendale di statuti / patti parasociali, ne ho visti parecchi, il problema potrebbe essere aggirato appunto con uno statuto e dei patti parasociali che prevedano determinate situazioni che possono essere appunto nel caso di divorzio / separazione, cosa succede, però stiamo parlando ovviamente di un caso in cui i coniugi siano soci della società, perché ovviamente i patti parasociali piuttosto che lo statuto incidono ovviamente sulla situazione di socio dei due coniugi. L'unica cosa che volevo chiedere all'avvocato, se fosse possibile, era sapere se è ancora valido il discorso che i patti parasociali possono risultare pienamente efficaci nel caso di matrimonio concordatario, cioè il matrimonio fatto in chiesa, se viene annullato dalla chiesa lasciando perdere i tempi di annullamento o cose del genere, ma se i patti parasociali, che possono anche essere fatti dopo il matrimonio, cioè nel corso, lei dice, del matrimonio, assolutamente, e per di più appunto il doppio gioco che si poteva usare, adesso non so se è più in auge questo tipo di legislazione, era il fatto che appunto l'esistenza di patti parasociali poteva essere utilizzato come prova per l'invalidazione del matrimonio da un punto di vista ecclesiastico, per cui addirittura mi faccio il patto parasociale e poi decido che va annullato, perché in quanto prevedendo un divorzio, ovviamente da un punto di vista ecclesiastico, certo, il mio matrimonio, cioè, rimane. Cerchiamo di semplificare questa terminologia per chi ci ascolta in una dimestichezza, me inclusa, con questo tipo di pratiche. Lei sostanzialmente dice: il fatto di avere in qualche modo concordato a livello parasociale delle situazioni, delle condizioni da rispettare quando ci si fosse separati o divorziati, per quel che riguarda il patrimonio in comune, cioè l'azienda, qui non stiamo parlando né di casa in cui si vive né di questioni private, il fatto di averlo concordato scritto in qualche modo inficiava la buona fede, cioè può essere utilizzato come premessa per sostenere che uno o entrambi dei coniugi avevano già in mente il divorzio. Ho capito bene, dottor Ardizzi? Quello nei patti prematrimoniali sono una cosa, i patti parasociali sono un'altra. I patti prematrimoniali possono essere fatti: io mi posso sposare in chiesa e poi chiedere l'annullamento del matrimonio perché c'è un vizio di forma che è dato proprio dal patto parasociale, che diventa comunque pienamente efficace, per cui bypasso il problema facendo tutto dopo. Ovvio che in una situazione di divorzio, separazione, è difficile trovare le due persone che si accordano, infatti queste cose succedono unicamente quando appunto c'è un accordo tra tutte e due le parti, diciamo. Per quanto riguarda invece i patti parasociali, cioè quelli che regolano l'andamento, le regole comunque generali dell'azienda, e non parliamo ovviamente di imprese personali o familiari, per cui ci sono due persone che sono soci e lavorano però non sono in regola, ma se parliamo di aziende dalla SNC, cioè società in nome collettivo, alla SRL e via discorrendo, nei patti parasociali posso prevedere, in caso di morte, in caso di separazione, in ogni caso, quello che può succedere al pacchetto azionario, piuttosto che alla dirigenza dell'azienda, piuttosto che a tante variabili che compongono appunto la vita dell'azienda stessa. A questo punto vorrei coinvolgere anche il segretario della CGA di Mestre, Bortolussi, perché è colui che in trincea osserva, diciamo così, quello che avviene. Avete molte di queste società, la maggioranza in questo arcipelago costituito da coniugi che lavorano insieme, delle aziende, delle società, è costituito da NSC, SRL, come sono regolate? Guardi, se parliamo di società, la maggior parte è SNC, società in nome collettivo, rispetto alle SRL, anche se adesso è favorita un po' l'SRL, almeno la formazione di una SRL. Ma guardi, nella maggioranza in assoluto sono ditte individuali, dove accade un po' di tutto. E vede, il discorso per esempio del contratto prematrimoniale, io non ne ho visti. Io l'ho visto in 32 anni. In 32 anni non ne ha visto uno. Ha ragione, perché sono vietati così. ma sa, la scritturetta privata che fa la cosa, ci potrebbe sempre essere. La verità è che anche per la nostra cultura è un qualcosa di hollywoodiano, un qualcosa che dice che c'è sfiducia prima ancora di cominciare, e quindi per la nostra cultura non si fa. Sarebbe bene invece introdurli proprio perché fanno chiarezza. Poi l'altra cosa che è molto importante, e anche questa è una cosa semi sconosciuta, anche questo sembra quasi come dire, io ti sposo ma non ho fiducia di te, il discorso della divisione dei beni, il discorso, questa è importante, perché quasi tutti invece, la stragrande maggioranza, finiscono per essere in comunione quasi senza saperlo, senza fare una scelta effettiva. La comunione avviene poi per non scelta, e questa è la cosa che noi vediamo tutti i giorni. Di casi ce ne sono di tutti i tipi. E tra poco ce li racconterà, perché siamo proprio interessati a situazioni pratiche e a vedere come l'esistenza di una legislazione più aperta avrebbe potuto risolvere o quantomeno rendere meno difficile, meno dolorosa queste situazioni. Rimanga con noi Bortolussi, se volete anche voi partecipare alla trasmissione 800 24 0024, un aggiornamento sul meteo. Nel 2010 le separazioni sono state 88.191, i divorzi 54.160. Rispetto all'anno precedente, le separazioni hanno dunque registrato un incremento del 2,6%, mentre i divorzi un decremento pari allo 0,5%. È comunque un fenomeno in continua crescita, perché se pensate che nel 1995 per ogni 1.000 matrimoni erano 158 le separazioni e 80 i divorzi, nel 2010 si arriva a 307 separazioni e 182 divorzi. Ancora buongiorno da Salva Danaio, da Irene Zerbini, per parlare di un effetto pratico di separazioni e divorzi che si viene a verificare quando i coniugi lavorano insieme. Situazioni che, come avete sentito, possono rientrare sotto diverse tipologie, ma che sono poco regolamentate. Torniamo a parlare con il segretario della CGIA di Mestre, Giuseppe Bortolussi, che ci stava raccontando come perfino la possibilità di ricorrere alla separazione dei beni in sede di matrimonio viene vista con sospetto con la mentalità italiana, quasi come un atto di sfiducia verso il passo che si sta per intraprendere. E quindi quali sono le situazioni che vedete alla CGIA di Mestre? Qual è la realtà di chi lavora insieme, Bortolussi? Guardi, lo può spiegare meglio di me certamente l'avvocato, ma c'è una forte distinzione tra l'azienda costituita prima del matrimonio, che se gestita poi da entrambi i coniugi, praticamente in comunione, perché quando c'è la separazione è tutto chiaro, mi spiego, la donna è quasi sempre la parte più debole, ha i suoi diritti, se mi permette una parentesi, sì, poi ne parlerò anche dove la donna è la parte più forte, perché succede anche quello, quindi succede anche questo, quindi sì, sì, non abbiamo mai detto che questa casistica riguardi solo le donne, però in particolare quando un'azienda magari titolare l'uomo è fallita, poi la ricostituisce tramite la moglie, la quale diventa titolare un po' di tutto, e lì non ci sono patti parasociali o altre cose quando si parla di ditta individuale, e molte volte poi in caso di separazione è la donna in mano tutto. Ecco, questo è il caso che può succedere. Comunque l'importante, certo, è la divisione, è questo aspetto, azienda costituita prima del matrimonio, o durante il matrimonio. O durante il matrimonio o dopo il matrimonio. Il discorso è questo: se gestita da entrambi i coniugi, diciamo alla donna di solito capitano gli utili e gli incrementi, no? Cioè queste cose capitano, sono dentro la comunione. Se gestita dal solo titolare, non spettano ovviamente gli utili, mi spiego, i beni non entrano in comunione, entrano solo gli incrementi qualora ci siano allo scioglimento del matrimonio. Il discorso poi, se dopo il matrimonio è gestita assieme e non c'è stata la separazione, i beni appartengono, l'impresa appartiene a tutti e due. Se invece è gestita dal solo titolare, a questo spetta, praticamente all'altro coniuge, spettano soltanto i beni e gli incrementi oggetto della comunione, se esistono al momento dello scioglimento. Però vede, questo per dire, cioè, altri bisogna stare attenti e se l'azienda è costituita prima o dopo. La separazione comunque mette in chiaro le cose e io la raccomando sempre. La separazione dei beni, lei intende, il regime di separazione dei beni. Sembrava quasi che lei da questi microfoni raccomandasse di separarsi. Per carità. Bisogna fare dei distinguo. Dicevo prima di questo caso, ci sono alcuni casi quando il marito fallisce deve aspettare anni per diciamo provare ancora e poter fare ancora impresa e quindi magari si serve della moglie che se è intraprendente, se è brava, quando si arriva poi magari alla separazione diciamo matrimoniale e al divorzio si tiene l'impresa, non sempre l'uomo che la fa da padrone, anche se ho assistito a casi in cui per esempio in società si è messo d'accordo la moglie e i figli hanno estromesso il padre che era chi effettivamente lavorava, solo che l'azienda era abbastanza strutturata e poi l'hanno data in mano a qualcun altro. Sono situazioni, Bortolussi, in cui appunto all'altro coniuge viene non solo tolta l'attività, tolte le chiavi dell'azienda in cui questa persona, adesso non stiamo a far distinguo tra moglie o marito, si presentava ogni mattina e a volte si è arrivati al tribunale e di fronte al tribunale sono stati chiamati a testimoniare perfino i lavoratori. È successo dalle vostre parti? Sì, è successo molto anche con lavoratori che dicevano quello che era, per carità, ma parteggiavano visibilmente per colui che avrebbe garantito la continuità della società o dell'impresa, perché il problema vero è questo. Quando succedono poi questi fatti, a soffrirne è l'impresa. È vero che è difficile capirlo, però vedi che per esempio il capo operaio vede un clima sbagliato e se ne va, vedi qualcuno che è molto bravo e l'impresa viene sgretolata dal di dentro, anche perché in queste piccole imprese come nelle altre, non crediate che siano solo queste, a volte c'è il nero, c'è il sommerso e uno si fa forte quello che conosce per ricattare l'altro, ci sono mille situazioni. Io dico sempre una cosa: separazione dei beni. E precisiamolo. Perché la legalità paga sempre. Guardi, se di una cosa sono diventato sicurissimo nel tempo è che la legalità paga. Al momento sembra costare di più, ma in ogni caso paga. Le faccio l'esempio di un imprenditore che faceva tutto lui, e ha comprato i muri dell'azienda, come si vuol dire, no? I muri. E quindi, avendoli comprati lui, in costanza di matrimonio, senza la divisione dei beni, lui comprati con i soldi dell'impresa, convintissimo di esserne proprietario, l'ha venduto senza la partecipazione della moglie, la quale, servendosi di un bravo avvocato, entro un anno dalla trascrizione, ti spiego, della vendita di questo immobile, ha annullato la vendita. Per esempio, questo signore era convintissimo di poter disporre di queste mura e di questo patrimonio immobile senza il consenso della moglie. La legalità paga sempre, quindi anche l'utilizzare, il maneggiare con disinvoltura il nero, come ci ha citato Bortolussi, una pratica, come sappiamo bene, molto diffusa in Italia, può essere oggetto di ricatto poi alla luce di una separazione o di un divorzio. Sono mille i rivoli che si intrecciano in situazioni di questo tipo. Senza dubbio, in Italia il problema è che nulla può essere stabilito preventivamente. Perché? Un problema di mentalità, ci ha spiegato l'avvocato Gian Ettore Gassani, che si potrebbe risolvere cambiando la legislazione. Dunque, in che direzione dovremmo andare, avvocato? Innanzitutto dobbiamo precisare che la separazione dei beni e la comunione dei beni sono comunque un patto prematrimoniale e sono dei patti prematrimoniali che gli italiani scelgono attraverso una crocetta da mettere all'atto del matrimonio. All'estero. E quanti la fanno questa crocetta? 70% degli italiani vivono in regime di separazione dei beni, perché questa è la sfiducia totale degli italiani quando si vanno a sposare. Ritengo che quello sia un atteggiamento di totale sfiducia che dovrebbe farci riflettere. Ecco, io, avvocato, non la capisco, mi deve scusare. Lei da una parte chiede che vengano fatti i patti prematrimoniali, poi dice che perfino far la crocetta su sì, voglio la separazione dei beni, è un atto di sfiducia. Non è in contraddizione quello che lei dice? Perché non ho finito. Allora il discorso è questo. Chiedo veni. Se negli Stati Uniti o in Inghilterra una coppia decide per la separazione dei beni, ci vogliono i testimoni, ci vogliono gli avvocati, ci vogliono persone che accettino che i coniugi siano in grado di capire in che cosa consiste la separazione dei beni o la comunione legale dei beni. Questa è la prassi che succede nei paesi dell'Occidente. In Italia noi ci preoccupiamo di stabilire che fine deve fare la casa della nonna, ma non ci preoccupiamo di far capire alla gente che cosa significa separazione legale dei beni o comunione dei beni. Immagini persone del tutto sprovvedute che anche davanti al prete vanno a firmare, mettono questa X, senza che ci sia stata una sorta di consenso informato. Quindi non c'è alcuna contraddizione con quanto sostengo io, che sono un tifoso dei patti prematrimoniali, ma i patti prematrimoniali, qualsiasi essi siano, devono essere spiegati, devono essere fatti capire, non è che possono essere messi con una X, che è un altro discorso. Quindi io sono per la separazione dei beni nella misura in cui le parti sono in grado di capire e consapevoli fino in fondo in che cosa consistono. Non devono essere automatici perché diventa una moda. Insomma, queste sono cose serie. Quando si parla di patti prematrimoniali, appunto dalla scelta del tipo di assegno di mantenimento che ci dovrebbe essere in caso di separazione, a che fine farà la casa in montagna, la casa al mare, tutti gli accordi che si possono fare devono essere assolutamente spiegati. Quindi da una parte noi abbiamo fatto fronte unico, noi italiani, contro i patti prematrimoniali, e poi stabiliamo e poi con estrema leggerezza lei dice cioè, questa è la contraddizione di fondo. Quindi è la contraddizione di fondo del sistema, non certamente quella della mia associazione. Ha chiarito molto bene, avvocato. 800 24 00 24 per i vostri interventi, ma rimarrei con lei per fare una domanda che riguarda invece l'Europa, perché spesso parliamo di Stati Uniti, conosciamo molto bene, qualcuno ha detto è una pratica hollywoodiana la questione dei patti prematrimoniali negli Stati Uniti d'America, ma non sappiamo come si comportano i nostri vicini, quelli che stanno anche a un'ora d'auto da noi. Lei che partecipa a convegni internazionali su questo tema, l'Italia come si colloca rispetto all'Europa? Siamo ancora una volta fanalino di coda? Siamo gli unici che non prevedono patti prematrimoniali? Siamo in linea con altri paesi mediterranei? Non so, mi dica lei. Allora, in effetti noi insieme a Malta, Polonia e Irlanda del Nord ovviamente siamo un po' allineati. Quindi voglio dire, abbiamo una sorta di legislazione abbastanza simile. I paesi anglosassoni, ma anche la cattolicissima Spagna, hanno cambiato registro da anni, e in questi paesi esistono forme di patti prematrimoniali. Anche negli stessi Stati Uniti esistono vari tipi di patti prematrimoniali a seconda degli stati. Il patto prematrimoniale non deve essere imposto, è solo una scelta, un'opzione in più. Chi non li vuole non li fa. Negli altri paesi si ragiona così. La Spagna, per esempio, è un paese ancora più mediterraneo del nostro, ma in Spagna quante cose sono cambiate negli ultimi anni? Si possono sposare gli omosessuali, sono riconosciute le coppie di fatto, esistono i patti prematrimoniali, il divorzio lo si ottiene in pochi mesi. L'Italia è fondamentalmente simile alla Spagna, eppure fa tutto il contrario. L'Italia è un paese che non riconosce tantissimi diritti, ancora stiamo a parlare di figli naturali e figli legittimi, anche se ci sono tanti disegni di legge per eliminare questa orrenda discriminazione, ma non esiste il riconoscimento delle coppie di fatto, non esistono diritti. L'Italia è un paese in cui se vuoi divorziare o aspetti 15 anni o prendi il primo volo charter e vai in Romania a divorziare. C'è anche il turismo divorzile ormai. Esatto. Cioè la Romania, che è un paese che dal punto di vista del diritto di famiglia ci dà una bella lezione, e così come tanti altri paesi. Se vuoi fare la procreazione medicalmente assistita, vai a Barcellona e fai quello, eserciti il tuo diritto. Cioè è un paese dei divieti assoluti, con la grande ipocrisia, perché tutti sanno poi... Poi con il paese reale, che assolutamente ha superato questo tipo di remore. Ma gli italiani sono un popolo completamente diverso dalle leggi che stanno in Italia. Perché selezioniamo male la classe politica, evidentemente. Qua torniamo all'urgenza della riforma elettorale. Ma quando si considera che i figli nati da coppie non sposate, cioè da coppie di fatto in Italia, hanno per la prima volta superato nel 2011 i figli nati all'interno di coppie regolarmente sposate, si capisce che evidentemente la legislazione non solo è indietro, ma andrà a danneggiare i soggetti deboli, cioè quelli che oggi sono bambini, minorenni, e che rischiano di trovarsi discriminati rispetto a fratelli, fratellini, sorelline nati invece all'interno di un matrimonio regolarmente, tra virgolette, spero si senta per radio le virgolette, regolarmente celebrato, avvocato. Quindi voi avete deposito depositato come associazione questo progetto di legge sugli accordi prematrimoniali in commissione al Senato. E cosa conteneva? Quali erano i punti importanti, fondamentali di questa vostra proposta? Bisognava ritoccare la legge sul divorzio e tante altre leggi del codice civile, ma soprattutto evitare ovviamente però dei patti capestro, cioè sono dei patti prematrimoniali un po' all'italiana, cioè non è possibile che uno dei due coniugi possa rinunciare a ogni diritto oppure a prevedere un assegno da fame. Premesso quindi che qualsiasi patto vessatorio deve essere assolutamente dichiarato nullo, una possibilità invece la vogliamo offrire agli italiani di stabilire tante cose. Vede, molte volte ci sono delle dispute anche per dei mobili di famiglia o per delle case comprate al mare o in montagna, come dicevo prima, per la casa coniugale che fine farà, se deve essere intestata ai figli, deve andare a lui o a lei, queste cose si potrebbero tranquillamente stabilire prima. Noi ci lamentiamo del fatto che i tribunali sono ingolfati di cause e non muoviamo un dito per cambiare tutto questo. Se ci fossero i patti prematrimoniali, se fossero fatti bene, se fossero capiti, probabilmente i tribunali non sarebbero presi d'assedio. E i giudici? Perché ogni questione deve andare davanti a un giudice. Invece se tutto e questi giudici, prima... avvocato, lei ha detto ci impiegano 27 minuti, questa è la media di una sentenza di separazione, dico bene, in Italia? La media. Un'udienza presidenziale in Italia è di circa 27 minuti, ovviamente abbiamo dei livelli di eccellenza in alcuni tribunali del nord, dove si possa, anche alcuni tribunali del sud per la verità, dove ci sono dei magistrati che riescono, vuoi perché hanno meno carico di lavoro, vuoi per una particolare specializzazione, a stare anche un'ora, un'ora e mezza con i coniugi. Ci sono anche tribunali in cui l'udienza presidenziale dura 5 minuti. La tristezza di famiglia che si fa molto di fretta quando bisognerebbe ragionare e poi si perdono tempi siderali quando si deve mettere una sentenza. 27 minuti per decidere non una vita, ma più di un'esistenza, sono un po' pochi. Ma sono niente, pensi un po' che molte volte i magistrati, poveretti loro, perché lo dico con grande rispetto, molti magistrati in grandi tribunali sono costretti a fare 30 separazioni al giorno e 30 separazioni al giorno significa dover dedicare il tempo minimo a tutti quanti, quindi non è colpa del magistrato, della cultura dei magistrati. È chiaro, questo no, ma è questo non è cambiato, assolutamente. Non trapelava per niente dalle sue parole, si capiva una lacuna sistemica, torneremo a parlarne tra pochissimo, anche con voi arrivano i vostri messaggi al 349-238-6666 per le telefonate, il numero non è cambiato, 800-24-0024, vogliamo sapere com'è la situazione sulle strade, poi torneremo insieme. Ritorniamo a parlare di numeri, sono tanti, sono inquietanti a volte, non solo i numeri su separazione e divorzi, quelli sono abbastanza noti, ma sulla durata di una sentenza che poi stabilirà condizioni di vita per diversi dei soggetti coinvolti. La media, 27 minuti, in alcuni casi 30 separazioni al giorno per un solo giudice. Ci stava elencando questa situazione l'avvocato Gian Ettore Gassani, insieme a noi ha cercato di fare una fotografia di quella che è la situazione italiana, di come potrebbe venire migliorata dall'introduzione anche in Italia dei patti prematrimoniali. Per concludere il discorso sui giudici, poi do la parola agli ascoltatori che incalzano, avvocato Gassani, gli addetti ai lavori, i nostri, sono preparati in materia di separazione e divorzi? Perché il diritto di famiglia cambia in continua evoluzione. Guardi, dipende. Diciamo che non c'è la cultura della specializzazione sia da parte degli avvocati che dei magistrati. Non c'è l'obbligo della specializzazione ancora e questo è un punto dolente del nostro sistema. Noi abbiamo dei grandi magistrati in alcuni tribunali che studiano, amano il diritto di famiglia, altri sono mandati allo sbaraglio, magari il giorno prima si occupavano di sfratti o di penale o di fallimentare. Credo che l'ordinamento giudiziario debba assolutamente cambiare rotta e prevedere quindi la specializzazione obbligatoria, soprattutto per il diritto di famiglia, che è la materia più importante e più spinosa in questo momento nel nostro paese. Cioè, lei dice ci sono magistrati che magari hanno fatto sfratti tutta la vita senza nulla togliere. Hanno fatto altre materie, sono bravissime in altre materie, ma credo che nessuna persona normale possa improvvisarsi una materia, qualsiasi essa sia. Se io andassi a fare una causa davanti al TAR non saprei da dove cominciare e non mi permetterei mai di prendere cause in materie che non tratto. Un po' come i medici hanno la loro specializzazione. operazione, dice lei, anche i medici, perché non richiederla a magistrato? Assolutamente, ma in tutta Europa gli avvocati non possono fare il bello e il cattivo tempo, come non è possibile che un magistrato possa passare da una materia all'altra come se niente fosse, non è più possibile. Noi italiani, che siamo l'Italia che è stata la cura del diritto, sta facendo una bruttissima figura davanti al mondo. Io sono convinto che i tecnici, i magistrati, gli avvocati che stanno sentendo le mie parole, sono assolutamente convinti che dobbiamo riqualificarci tutti, senza corporativismi, senza nasconderci, perché credo che la preparazione, la specializzazione riduce il margine di errore. E questo è importante, perché gli italiani molte volte sono anche sfiduciati nel nostro sistema e questo non va bene. Francesco, buongiorno. Pronto? Salve. Francesco, non sia timido, da dove chiama? Chiamo dalla provincia di Imperia. Il suo quesito, dica. Allora, niente, io mi sono sposato, dunque nel 98 ho iniziato una relazione con una ragazza di Cuba, e nel 2007 l'ho sposata, sì, là, sì, legalizzando tutto là, però là non esiste la separazione dei beni, c'è solo la comunione dei beni. Adesso sta andando tutto benissimo, perché ormai sono talmente tanti anni, io sono andato coi piedi di piombo, anche perché ho visto gente più furba di me fare delle fini proprio ridicole, però adesso volevo sapere, tutto quello che io ho comprato prima del 2007, e eventualmente quando mia mamma mancherà, speriamo tra 2000 anni, quello che dovrebbe lasciarmi, visto che ha già liquidato mia sorella, se eventualmente ci dovesse finire finire il matrimonio, immagino volesse chiedere. Francesco, c'è ancora? Va, sì, non so, sì, sì, no, vagamente, concluda, se eventualmente dovesse finire questa sua relazione, cos'è che vuole sapere? Se va diviso a metà? Ecco, quello che io ho, che non ho comprato durante il matrimonio, ma l'ho comprato prima, o mi è stato lasciato dai miei genitori così, se io devo darle qualcosa a lei. E la preoccupa questa possibilità? Ho notato il tono. No, non è che mi preoccupa, era solo per una curiosità. Io avevo Avete figli, sì. Francesco? Lei è la signora? Sì. Quanti? Pronto? Uno, è nato nel 99. Grazie. Un figlio di 13 anni, dunque fotografata la situazione con questi quattro dati. Avvocato, ha una risposta veloce per il nostro ascoltatore. Tutti i beni acquistati prima del matrimonio entrano in comunione. Quindi resterà proprietario esclusivo il marito nel caso specifico. I beni entrano in comunione soltanto dopo la celebrazione del matrimonio. Benissimo, Francesco, quindi si è tolto in qualche modo un dubbio. La tematica di oggi però non riguarda tanto i beni acquistati prima o dopo il matrimonio, acquisiti in qualche modo, quanto l'attività lavorativa, perché abbiamo avuto segnalazioni soprattutto di donne, ma non esclusivamente del sesso femminile, perché è una casistica piuttosto diffusa, di coniugi, diciamo così, che in nome dell'amore, e per fortuna c'è, hanno profuso per anni un impegno in una società, in un'azienda, senza figurare come dipendenti, e si sono ritrovati non solo a spasso, non solo a volte col cuore a pezzi, perché naturalmente anche le questioni emotive vanno calcolate in queste situazioni, ma addirittura impossibilitati a mantenersi, perché estromessi non solo dal matrimonio ma dall'attività che svolgevano a tempo pieno prima. Il commercialista che è con noi questa mattina, il dottor Pasquale Ardizzi, ha qualche suggerimento? Suggerimento? Da dare in questo caso. Lei ci aveva raccontato di come, era un po' il suo slogan, la legalità, il mettersi in regola. Assolutamente, quello è la primissima cosa. È tutela. Ovvio che qua in Italia, tra marito e moglie, l'idea che il marito assuma la moglie o viceversa è abbastanza fumettistica, mentre invece questo vale onestamente sia per marito e moglie come per qualsiasi altro rapporto di lavoro o aziendale, cioè dove c'è la legalità e ci sono le informazioni, a quel punto la cosa diventa molto più facile. È ovvio che nel 99,9% dei casi, quando si arriva a una separazione, o c'è qualcuno che è più furbo dell'altro, oppure tutte e due sono pesantemente ignoranti in materia, per cui si si trovano ovviamente. È vero che le cause durano 27 minuti, però bisognerebbe anche vedere quanto tempo sono stati questi due, chiamiamoli poveretti, sfortunati, dagli avvocati a litigare tra di loro. Certo, durano 27 minuti, però dopo 15 anni di litigi contenziosi, sì, e stress che, come abbiamo detto, si riverbera spesso in casa e sui figli, e ci segnala qualcuno, è molto importante sapere come andarsene. Cioè, a stare insieme è abbastanza, sono abbastanza capaci tutti, ma ricordarsi che quelli che sono poi i gesti a fronte di queste udienze di separazione o di divorzio, sono quelli che marcheranno poi il ricordo di una vita. L'ultima uscita è quella che caratterizzerà anche nei racconti dei figli, addirittura spesso, ricordiamocelo, il ricordo del padre o della madre. Legalità a tutti i costi, questa è la miglior tutela, anche nel caso di marito o di moglie impegnato in azienda, non si faccia una distinzione, se lavora deve essere assunto con tanto di contratto regolare. Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre, ci sono situazioni di questo tipo? Certamente ce ne sono, le abbiamo favorite anche noi, spiegando per esempio che se la moglie è assunta regolarmente avrà una pensione regolare, ma soprattutto ti puoi detrarre le spese dall'azienda. Bisogna che anche i nostri piccoli imprenditori imparino a separare il loro portafoglio da quello dell'impresa. L'impresa è una creatura a sé che ha i suoi diritti, per esempio il diritto alla chiarezza e alla legalità è uno dei fondamentali. E questo è molto importante. Le posso anche segnalare che non ci sono solo casi negativi, io ho visto anche casi positivi, per esempio in maniera molto solomonica una signora che non aveva partecipato all'impresa ma erano in comunione di beni, poi alla fine si sono messi d'accordo, lei ha lasciato tutta l'impresa anche se valeva di più al marito perché sapeva che lui per non distruggere tutto. Questo la, che è un, esatto, patrimonio anche sociale, perché le conseguenze poi sono anche sulle famiglie dei dipendenti che, come avete sentito, a volte fuggono, a volte si trovano in uno stato di grande confusione. È molto importante questo messaggio che ci ha dato Bortolussi, grazie. Roberto, pronto, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Da dove chiama? Chiamo da Milano. Velocissimo, purtroppo, perché siamo in chiusura, Roberto. Velocissimo, io voglio sapere se in caso di morte di uno dei coniugi separati i diritti passano in toto agli eredi e se l'eventuale esclusione di impatto prematrimoniale di eredi del coniuge che eventualmente dovesse mancare possono essere considerati nulli. Domanda difficilissima che giro subito all'avvocato. Avvocato Gassani. Non ho capito la domanda. Roberto. Roberto. Allora, in caso di morte di uno dei coniugi separati. Sì. E cosa, quindi, succede con gli eredi? Chi sono gli eredi in caso di morte di uno dei coniugi separati? Beh, il coniuge e i figli sono i primi eredi. Anche l'ex coniuge, e quello sta cercando di chiedere, anche l'ex coniuge. Allora, se c'è stata, allora, se è intervenuta la sentenza di divorzio o no. Soltanto i figli, altrimenti se sono ancora sposati o c'è stata la separazione, ma non è finita ancora, non c'è stata la sentenza di separazione, anche il coniuge. Dipende se c'è stato lo scioglimento del matrimonio o no, o se c'è stata almeno la sentenza di separazione che scioglie la comunione. E queste sono tematiche molto delicate per quel che riguarda a volte anche la pensione. Si torna ad aprire uno dei grandi problemi in Italia con le coppie di fatto che ormai hanno superato le coppie sposate, non c'è alcun riconoscimento dei diritti acquisiti nemmeno in quel settore, ma potremmo parlarne per anni, non possiamo farlo oggi. Non mi resta che ringraziare Pasquale Ardizzi, commercialista, l'avvocato Gianetto Gassani, presidente e fondatore dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, e Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA di Mestre. Da Irene Zerbini, appuntamento a domani con Salvadanaio.